sei tu che mi dai l'ispirazione per alzarmi ogni mattina cercando il buon umore. Sei tu che svegli i miei pensieri accarezzando la mia mente mentre passa indifferente il tempo tra di noi. Vorrei per sempre restare così con tutti i tuoi massi, pronto per viaggiare verso mete infinite dove il tempo e lo spazio non arriveranno mai. Oh, oh. E tu ci sarai e io ci sarò, nessuno ci prenderà. Correremo insieme, io e te, verso l'alba che verrà. Nessuno ci trova, nessuno ci troverà. Sorriso lontano, sei tu che vivi per me oltre le sfide degli altri che non sanno fare altro che accusarci. E voglio dividere un amore che sa volare anche da sé verso mete infinite dove il tempo e lo spazio non finiranno mai, mai, mai, mai. Tu ci sarai e io ci sarò, nessuno ci prenderà. Correremo insieme verso l'alba, verso l'alba che verrà. Nessuno ci trova, nessuno ci troverà. Sarai e io ci sarò, nessuno ci troverà. Voleremo insieme verso l'alba che verrà. Nessuno ci separe, nessuno ci separerà. Se tu non ci sei.